conosce bene il gioco e da bravo giocatore parla poco. Io non sono un principiante, ma appena bleffo lei lo legge in fronte. E allora scusami se ti amo, e adesso no, non cadere giù dal velo. Tu sai che io lo so che ti sei venduta l'anima. Sai che io lo so che ti sei venuto.